Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. You're one ugly motherfucker. L'ultima volta hai letto un mail di un ascoltatore che sostiene di avere dei problemi con la punteggiatura. Beh, digli che anch'io ho dei problemi con la scrittura, ma questo non mi ha mai impedito di avere la forza per cercare di esprimere quello che mi frulla per la testa. Mi hanno colpito le sue belle parole. La vita è fatta di alti e di bassi, concordo. Farò tesoro del suo consiglio, scavare dentro se stessi, senza però farsi del male. I momenti bui servono per farti sperare, per farti assaporare le vibrazioni positive. I miei momenti bui li definisco i malesseri del benessere. Non mi manca nulla, forse quello che mi frega è l'idealizzazione. Dovrei fare tesoro delle ricchezze della vita. La musica, soprattutto dal vivo, è per me una ricchezza ed è fonte di forti moti d'animo. Difficilmente ho provato sensazioni negative. Non so, sarà il caldo dell'atmosfera, le luci, il volume, il suono sporco. Non ricordo con precisione l'anno del concerto di De Gregori, ma è vivo il ricordo dell'atmosfera piatta che si creò quella sera a teatro e della mia delusione. Sul palco Francesco si dimostrò freddo e scostante. Non posso dire di avere provato nemmeno sensazioni negative. Non provai niente. Devastante. L'indifferenza è per me devastante.

already told you all my platitudes, sang you my interlude. But now that I am here with you, no words will suffice. No, five New Yorkers, they wait among bills as neglected blank checks, basking dust on my sill. In those antimazepam, atenolol, and other stray pills. Well, I can't conjure your face in this New England chill, in this New England chill. Questa è la seconda parte di Eclettica della settimana in corso. Giulio Caperdoni in vostra compagnia. Già ci siamo ascoltati, direi, parecchia musica. Allora vediamo di prendere il foglio, perché anch'io già mi sono dimenticato. Nell'ordine vi siete ascoltati Controller Controller, Adam Green e anche Jeff Farina con la sua nuova prova solista. Per il dettaglio del titolo dei brani, ovviamente, colgo l'occasione per rimandarvi alla playlist di Eclettica. Il modo comodo per averla, riceverla direttamente nella vostra casella di posta più o meno ogni weekend, sabato o la domenica, dipende quando riesco effettivamente a mandarvi il mail in cui, oltre all'elenco preciso dei brani, dei film e dei libri che vi sentite in Eclettica ogni settimana, avete anche magari qualche anticipazione su quello che avverrà nelle settimane successive. E a proposito di settimane successive, la prossima, cioè la settimana di Pasqua, Eclettica si prende una pausa, quindi la settimana numero 28, dal nostro personalissimo punto di vista, sarà la settimana che comincerà con lunedì 24 aprile. Settimana che fra l'altro avrà anche una novità, non per l'Eclettica serale ma per quanto riguarda le pillole, perché l'esempio di Eclettica verrà seguito da altre trasmissioni, sentirete, saranno parecchie trasmissioni, sentirete le novità nel palinsesto di Rock FM, e quindi ovviamente si riduce lo spazio di pillole per Eclettica, dato che il tempo è una risorsa limitata. Avremo solo una pillola al giorno, sempre dal lunedì al venerdì. L'orario è fra Marco e Max, cioè alle 10:55. Ora ci ascoltiamo una nuova prova discografica uscita in questo mese di aprile da parte della Fargo Records, la stessa etichetta, magari esagerando un po', paragona questo artista a Graham Parsons. Lui si chiama Neil Casal, No Wish to Reminisce, e questo è il titolo dell'album, e noi ci ascoltiamo You Don't See Me Crying. Your phone's too fast. Mi chiamo Stanley Mitchell Jr. Tanto mi ricordo, tanto intendo scrivere. Questa storia ha avuto luogo in una città di nome Dumont. È tutta vera. Si è svolta nell'arco di un breve periodo ed è capitata a me. Dumont ha preso nome da uno dei suoi primi abitanti, un certo Ham Dumont. Di lui si sa ben poco altro. Era arrivato e aveva dato il suo nome a quel posto per poi svanire nel nulla. All'inizio Dumont non era che uno sgangherato assembramento di bicocche di legno appollaiate sulla sponda del Sabin River, proprio nel cuore del Texas orientale. Un posto di argille rosse e sabbie bianche, enormi alberi di pino e pantani infestati da serpenti. La biblioteca di Dumont conserva immagini sbiadite delle baracche dei pionieri sulla riva del fiume, immagini che sembrano filtrate dall'obiettivo di una rozza macchina fotografica. Non che ci fosse da aspettarsi chissà cosa da un inizio del genere, oltre a una bella risciacquata di pioggia capace di mandare tutto quanto a rovesciarsi nel fiume. Ma nel corso degli anni e del XX secolo questi tuguri si sono ingranditi a poco, fino a diventare un paesotto. Man mano che i giganteschi alberi venivano abbattuti per ricavarne il legname da costruzione. In seguito, il paesotto è diventato una piccola città di circa 100.000 abitanti, ma i fatti di cui intendo parlare sono accaduti ben prima, quando la mia famiglia si è trasferita da quelle parti, sul finire degli anni 50. Questo era l'incipit di La sottile linea scura di Joe R. Lansdale. Ceiling half the time, hanging round the ceiling half the time. Holden, questa Nico Case, già la prima volta che la trasmisi la paragonai a Grace Lee, ho anche trovato conferma nelle parole di qualcuno fra voi, parole che ho lì come tante e che magari prima o poi leggerò, esce per la Anti. Invece in precedenza, prima di Nico Case e prima anche dell'incipit che vi ho letto pochi minuti fa, è stata la volta del nuovo dei Flaming Lips at War with the Mystics. Questo è il titolo dell'album, The Wound invece è il titolo del brano, però con tutte le lettere puntate. che stanno a significare del Will Always Negates Defeat. Ora chiudiamo quella che è la seconda parte di Eclettica di questa settimana con un nuovo disco in uscita il 1 maggio per quanto riguarda tutto il mondo, a parte gli Stati Uniti dove uscirà il 9 di maggio, la band nordirlandese degli Snow Patrol, sapete, li ho amati molto con The Final Straw. Il primo giudizio a freddo di questa nuova prova non rivela così tanta passione, così tanta attrazione istintiva nei confronti di questo disco, ma magari, chissà, ascoltandolo con più calma riesco a trovare quelle cose che ad un primo passaggio non mi colpiscono, ma che mi colpirono tanto nel loro precedente disco del 2003. You Are All I Have, il brano che chiude la seconda parte di Eclettica di questa settimana. Fine della seconda parte.